dei miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e di cassetti, di ricordi ed indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima poi andar via. Sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggere i dolori ed i miei guai. Ho camminato per le vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violenta. Mi son detta tu vedrai. Potrà mai cambiare la vita.